22:59. Le frequenze di Radio Ondaro 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. E ancora con le mollichelle in bocca, perché così viviamo di fretta, ci piace. Ci piace fare tante cose, ammucchiarle tutte. Sì, alla fine ci si stanca, ci si stressa, però insomma ci piace questa cosa e ve ne approfittate, sì. Signori padroni e padroncini del mondo e delle singole nostre vite. Politicini e politicanti. Tutto sommato è così, vi piace che comunque noi ci diamo tanto da fare e non ci rassegniamo a questa vita di produzione, consumo, crepa. Di una vita fatta di stereotipi. Di un'esistenza fatta di caselle e di schemi. Voi tutti e voi tutte che deridete poi la nostra singolarità. Le nostre singolarità, il nostro essere queer e umani. Il nostro fare in modo che la vita non sia una replica. Sì, di prima acchito ci deridete. Ma poi quando il nostro modo di essere, di vivere diventa contagioso, poi ne volete fare mercanzia. E questo non va bene. Perciò ci siamo con questa radio che non si vende e non vende nulla. Una radio che invece è un raccoglitore di lotte, di esperienze, di dibattiti, di idee, di contrasti, di scazzi, di quello che vi pare. Una radio che vive libera nell'etere dal 1977. Che è una radio che appunto è la voce, è il megafono, è il ripetitore delle lotte che si fanno nella città e anche altrove. Una radio che trasmette sugli 87.9 della modulazione di frequenza con il nuovo splendido trasmettitore che non si sente, è perfetto, no no. Perché lo dicevamo la scorsa puntata, non intendiamo sicuramente prevaricare con potenze e anche costi esorbitanti per la radio. Vogliamo semplicemente farci sentire al meglio e perciò stiamo mappando un po' la città e le zone di ascolto, le qualità del segnale, insomma, senz'altro è migliorato un po' da tutte le parti. Però ci stanno ancora alcuni punti così in cui è un po' contrastata, in cui non si sente molto bene e cercheremo quindi nelle prossime settimane di, con degli accorgimenti, qualora possibile, di migliorare ancora il segnale di ricezione. Una radio che trasmette anche in internet, quindi se siete troppo lontani dallo splendido nuovo trasmettitore potete ascoltarla al solito collegandovi in rete a www.ondarossa.info. Ascolta la diretta. È una radio che dovete sostenere, che la sosterrete senz'altro attraverso quello che sta scritto sulla pagina del sito sottoscrivi. Costi. troverete tutte le indicazioni per farlo. Invece quello che vi diamo è il 6180 4001, il numero del conto corrente postale a intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 560085, Roma San Lollo. Ondarossa@ondarossa.info è la mail della redazione, mandateci lì le vostre comunicazioni. 25 o'clock@ondarossa.info, la mail del sottoscritto della trasmissione dello spazio che state ascoltando. Ed infine illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è, 06491750, il recapito telefonico della radio. Dai, ora qui siamo nel 1973. E questo lavoro è un lavoro di Franco Battiato, che all'epoca si faceva chiamare solo Battiato. E non dico che ci fermiamo qui, ma poco più in là, insomma, di quegli anni, un Battiato assolutamente sperimentale. Questa è Reknames, 1973, da Pollution, Battiato.

questa è Radio Onda Rossa 23, 15 minuti primi, 25 o'clock. E ci siamo ascoltati dopo un Battiato di annata 1972, altra roba che viene dagli anni 70 ma riscritta, risuonata, riarrangiata. Si tratta di Tossico Amore per la batteria. La settima traccia M17, che è esattamente la replica di quella che era la colonna sonora del film del compianto Calegari, Amore Tossico. Le musiche del film originale furono curate da Detto Mariano, personaggio che così imperversa in tutta la scena degli anni 70 e che ritroviamo proprio in un lavoro del Balletto di Bronzo. Una delle prime band di progressive italiano, appunto degli anni 70, questo è un lavoro del 72-73. Balletto di Bronzo, che erano Gianchi Stringa, Vito Manzari, Lino Aiello, Gianni Leone e appunto gli arrangiamenti di Detto Mariano. E questa è la terza traccia di VS, il Balletto di Bronzo, Terzo Incontro. Un altro uomo appesa in croce, senza sentire la sua voce. Gli andò vicino e gli parlò: ed in quegli occhi senza luce, pungenti spine erano infitte. Sentì già sue quelle ferite, e poi la luce non fu più. Shut up. Rocket, מכות לקברך נפשי עולה עולה עולה עולה עולה עולה מאלוהים עולה עולה עולה מאלוהים עולה עולה עולה באלוהים עולה עולה עולה עולה עם אלוהים רוקד רוקד רוקד רוקד עיני ספוגות במבט חליל בשיבור Yeah.

cosa volete. Ogni tanto ci sfugge la mano, quindi 25 o'clock in versione. Boh, fate un po' voi. Comunque, una lunga sequenza senza interruzioni. Dagli 87,9 della modulazione di frequenza e quindi da Balletto di Bronzo con il terzo incontro siamo passati a una selezione di Gonja Sufi. Gonja Sufi è un DJ produttore che ha scelto il deserto come luogo per vivere con la propria famiglia, con i propri figli. Luogo capace di catalizzare il proprio estro in questi suoni corrotti. E quindi da due lavori più o meno pubblicati nello stesso anno, qualche anno fa, sarà stato 2010-2011, non ricordiamo con esattezza, abbiamo ascoltato Cowboys and Indians. Poi è Aijing, che è già un remix delle cose precedenti di Gonja Sufi, in collaborazione ovviamente con altri DJ che si sono preoccupati di manipolare ulteriormente le sue di manipolazioni. Junun a seguire. Un lavoro di Shai Benzur. Shai Benzur è un arabo palestinese, così arabo israeliano, così si dice, insomma, che ha prodotto insieme a Johnny Greenwood dei Radiohead and the Rajasthan Express, che è una combo, come si dice, di musicisti dell'India occidentale, del nord-ovest dell'India. Un doppio disco da cui abbiamo ascoltato la seconda traccia del primo disco, che si chiama Rocked. Poi torniamo indietro ancora, primi anni 2000 o addirittura forse la fine degli anni 90, comunque Terra Nova, anche questo era un combo di tre DJ di provenienza teutonica. Tokyo Tower, Avenue Remix. Poi ancora un altro produttore britannico, però con le radici, diciamo anch'egli mezzo indiano e mezzo britannico. In arte si fa chiamare Fortet Bukla, abbiamo ascoltato del 2013. E poi infine questa Fuck Buttons, che invece vengono dagli Stati Uniti. Abbiamo ascoltato la sesta traccia di questo lavoro, Slow Focus, Sentinence, la quarta traccia. Il tutto all'ascolto di Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa che così chiede venia, comunque ricambia, rimescola tutto al suo solito. Ci verrebbe da dire. Ma è un po' la schizofrenia di questo periodo, di questi anni, di queste settimane, di questi mesi. La confusione che regna sotto il cielo. Un mondo che non riesce a ritrovare più le sue coordinate, nemmeno quelle del potere, che comunque anch'esso risulterebbe un po' schizofrenico rispetto al modo di pilotare il presente di tutti i decenni passati, incapace di trovare una quadra in mezzo a un milione di contraddizioni che egli stesso ha prodotto. (0649-1750) il recapito telefonico di Radio Onda Rossa. noi continuiamo ad alterare e manipolare. E lo facciamo grazie a produzioni che variano e spaziano in un paio di decenni, ma anche molto di più, a giudicare da come abbiamo iniziato questa notte. Però appunto già ci stavamo perdendo il filo del discorso, dicevamo Radio Onda Rossa che appare un po' schizofrenica. L'altra scorsa settimana vi parlavamo della Due Giorni alla SNIA, che però diciamo al momento è saltata in quanto Due Giorni per questo, non per questo fine settimana, ma per il prossimo. Sta girando però uno spot che dice che è una parte di quello che avevamo programmato per quanto riguarda la Due Giorni della SNIA. Sarà intanto dirottato per quanto riguarda almeno la programmazione della presentazione del libro in quel dello spazio 100 celle aperte. Quindi venerdì 15 giugno a 100 celle aperte, via della Resede 5. Ore 18, presentazione del libro di Sara Carbagnoli e Massimo. E Massimo Prearo. Le crociate anti-gender dal Vaticano. Alle Manif Portus. Dibattito con l'autore sulla reazione no gender. A seguire cena a cura di Radio Onda Rossa. E questo appunto il 15. Stiamo vedendo proprio in questi momenti se comunque fare qualcosa anche il 16 come radio. E comunque al di là delle produzioni che fa la radio, un giugno pienissimo di iniziative, di incontri, di dibattiti, di concerti, di robe culturali, insomma. a partire da Ponte Mammolo, dalla festa popolare Mammut, da venerdì sabato prossimo. E poi ancora, ovviamente, venerdì, Echoes of Silence, opening act, il Giardino Violetto, centro sociale occupato Forte Prenestino. 8 giugno 2018, via Federico D'Alpino 100 Celle, serata a sostegno di Radio Onda Rossa. A seguire DJ set con Electrodos in Noctibus Panis, abbiamo detto, Bella Fagioli, Ittengeisen. Il compleanno della torre pure, E poi ancora L38 Squat. Ne abbiamo parlato qua in radio. Durante Silenzio Assordante, Tattoo Circus, 3 giorni di tatuaggi, benefit per chi è in carcere. Il tutto a L38 Squat. 8, 9, 10 giugno. Tanto, tanto, tanto altro, vi citiamo, ovviamente, lo presenteremo senz'altro qua in radio. Già abbiamo cominciato comunque con alcune citazioni, ma appunto avremo modo di presentarli in maniera più compiuta nelle prossime settimane. Giugno 21, 22, 23 e 24 2018. Crack, frumetti dirompenti, The Best Underground Comics, Silk Screen, Empress, Planet Heart. Ovviamente il tutto al Forte Prenestino ancora, e poi Ostia Palusa, sì. Avremo il 29 primo luglio avremo modo di presentare più compiutamente, proprio da queste parti, in questo spazio, Ostia Palusa 2018, anche a chiudere il mese di giugno. Mezzanotte 03, noi andiamo avanti così. We'll be right back. lit. I'm not surprised, check your thermostat. No digits, I drop a drop, shoot your damn deck. Collect your chips, go buy a rock. I bring my death back, you go get bit. I stick up on me, I set my mind, shock my body through. All damn poison, now go with the trigger. I'm open while you're at it. Cover my inhibitor, I can't hack it. Be my buffer, my habit. Hunger, oh hunger, I not quest, oh, I can't live in this contagion. I turn it to incisions, all in cages, heavily stricken, witness vision. Only one wall, where I lost up any and all serious of the table. You're like a long thug, if I'm lit, stay put, you're the wrong one, this don't fit. Too soon, you blow dark blood, this won't hit. Got no hook, true or false though, you can't split. Bitter face, bitter cloud up, the Costco remix. Your taste, all you got though, rich shit. What a waste, how can you not know, so which is it? Love or hate, you'd rather not know, watch it won't fit, fuck as you say. I stick up on me, I set my mind, shock my body through. Oh, baby, poison. Oh, baby, poison. Oh, baby, poison. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. I stick up on me, I set my mind, shock my body through. Oh, baby, poison. Oh, baby, poison. Oh, baby, poison. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Passaggio dal mondo in cui il punto ed il momento non esistono, al mondo del causa-effetto, sillogismo e tempo lineare. Le prime linee, come l'inneo, alludono ad una classificazione dei dati di tipo sensoriale. Sono sdraiato nel caldo, immerso nella luce, colpito alle spalle da un materasso a molle impertinente, atroce. L'umidità di un'aria controllata altrove mi comanda di cercare acqua, di scostare la coperta. Una sega circolare, il mio compare di fianco a me che russa. Soffitti alti e letti livello terra, è un'ospitalità, una finestra fine marzo, fa sì che io mi alzi alle 9:30, anche se la sera prima ho preso parte a quello che siamo soliti dire concerto. In verticale, equilibrio, scarpe, fame, stanza, zaino, pavimento, legno rumoroso, un trapezio appeso, pende dal soffitto, una porta che non conosco, prese elettriche che differiscono. Il problema dove sono, dove mi sono svegliato, si fa molto interessante, dal corridoio al bagno, dallo scricchiolare del pavimento, il legno ad un odore di campagna. Mi ricordo adesso, so dove mi trovo, è un appartamento nel centro di Lubiana, Slovenia, città con boschi attorno e poco interland. Ieri sera abbiamo suonato al Metelkova, un complesso di locali autogestiti con in mezzo una piazza senza memoria storica. La mia mano sulla maniglia della porta del bagno per cena. Abbiamo mangiato minestra, abbiamo fatto domande a gente che parla una lingua diversa. porta per scoprire come comportarci quando anche da noi verrà la guerra. La porta del bagno è aperta e mentre penso alla tranquillità complessa di chi ieri sera ci ha dato una risposta, un maiale, sì, un suino mi corre incontro. Vi assicuro che non stavo sognando. Con la chiave apro la porta, con la scala sfrutto la forza di gravità. Con la strada non mi perdo, mi aggiro per Lubiana. Non capisco una città solo passandoci il fine settimana. Men che meno quando la mia padronanza della lingua slava è limitata ai termini come Umri, Dobro, Zerkni, Voda. E il mio blocco di imbarazzo mi impedisce di gettarmi in un discorso infinto inglese, rischiando che le mie richieste siano troppo complesse rispetto alle poche parole sentite e lette nella lingua degli S. Cerco una panetteria con prodotti e prezzi ben esposti, in modo da potermi esprimere a gesti, versi, sgranate, tocchi. Quando sono accompagnato, mando avanti gli altri, poi mi inserisco nei contesti. Ho problemi a chiedere persino in italiano, che irrisolti, ma tappati con degli espedienti, si ripresentano con degli accenti, già quando gli abitanti parlano dialetti. Compro dolci austro-ungarici, facendo gesti con le dita. Ieri sera sotto il palco la gente era molto ricettiva, e questo basta a compensare la diversità linguistica, con la disattenzione di molti con linguanei che costruiscono muri con l'onestà intellettuale, con un'idea impersonale di spontaneo e naturale. Se qualcosa non vi è chiaro, fate domande, non fate discorsi. Generazioni intere di devoti dei dualismi, generazioni intere di devoti delle generazioni. Sono le barriere dei patriarchi nei confronti di noi maghi. Voi non siete persone, non siete dialoghi, siete solo allenamento costante per me che so già di cosa sto morendo. Io che sono consumato nel nervo, non nel nervo. Genero forza motrice anche dal vento, dalla forma di un cumulo nembo, da questo strudel caldo ripieno di semi di papavero. Mi perdo nei vicoli di queste case ignote, con le tegole quadrate, sottili, sfasate. Strada principale, negozi come ovunque, cielo grigio perla, qualcuno parla, commercia, tratta. Levo il filtro dell'esotico, immagino che questa sia la mia città natale, le strade che frequenterei, le case lungo il fiume. Chi sarebbero i miei amici se io abitassi qui? Quali mezzi pubblici preferiti? Quali luoghi nascosti obliqui? E con che lingua renderei i miei pensieri comprensibili? Quanti mesi, anni per adattarmi agli abitanti? I miei sacchetti di leccornie comandano i miei passi, mi dicono smetti di immaginarti, torna a far colazione con gli altri, ricaricati e riparti. I miei ritorni sono i percorsi contrari e rovesci di quelli appena fatti e, mentre sono a pochi angoli dalla casa dei miei ospiti, la mia sorpresa si trasforma in elemento, diventa il cappotto giallo indossato da un veloce soggetto fatto di capelli, collo, gambe, passo. È un colore intenso e scelto, un panno morbido, deciso, caldo, avvolge un corpo che non identifico in altro modo se non ragazza. Non faccio tempo a perdermi nelle opinioni inutili sulla bellezza per la troppa fretta, ma vorrei fermarle e dirle che la sua scelta determina molte più cose delle caratteristiche fisiche a lei date dall'ordine spontaneo e naturale. Non riesco a fermare una ragazza così dal niente, temo sempre che non capisca quel che io voglio da lei, temo sempre sovrapponga i pensieri degli altri ai miei. E poi in inglese a gesti potrei soltanto fare disastri. Cosa dico? Excuse me miss, hey girl, I saw you walking on this little street, strictly for fit. I won't only tell you that I was impressed by the color of your long jacket. I think that the choice of a color for a girl is more important than the somatical beauty, because you can choose the color of your clothes, but you can't choose the shape of your nose. I love your human side that is best expressed in this warm yellow. Sì, è molto stupido, però adesso che ci penso avrei molto più difficoltà a spiegare la magia in italiano a un italiano. Quindi in rapporto alla magia posso fare qualunque cosa, anche toccare un ragno, presentarmi una ragazza, anche toccare una ragazza, presentarmi un ragno. Salute. It's good, Bono. Senor K. And one in the building with you, you know what I'm saying? All power to the people. Yeah. You know where to find me. Find me in the social center. You know what I mean? Let's go. Look, we about that self.

basta. Basta, lo vorremmo dire per lo sfruttamento sui luoghi di lavoro, per una vita grama fatta di periferia. A tutte le imposizioni che ci inducono, ci educano. Ad essere standard. Basta. Però per ora possiamo dire solo basta a questa sera, questa notte. Di Radio Onda Rossa di 25 o'clock. Sì, perché l'appuntamento in diretta che vi diamo è per questa mattina, fra un po' di ore, alle 8, quando riprenderà la programmazione in diretta della radio. Vi diciamo che abbiamo ascoltato Dalek Armed with Krylon, poi Goldie dall'ultimo doppio, seconda traccia disco 1 Prism, Death Grip, la nona traccia BB Poison, Walkie Talkie, mi sveglio da straniero in un luogo mai visto prima, tuttavia. Signor K, la città di sotto, Danilo Fatur. Mao Fadong. Poi Giardino Violetto. Liquid Sensation Display, la cover. Giardino Violetto in concerto ad aprire ad Echoes of Silence al Forte Prenestino per questo venerdì 8 giugno 2018, la cospirazione della Rosa Nera e Radio Onda Rossa presentano Echoes of Silence e il Giardino Violetto in concerto. A seguire DJ set Electro Dark Wave Industrial Goth con DJ Retro, prove tecniche di trasmissione in Octopus Panis e Meet Geisen. Si riprenderà, come dicevamo, domattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, i redazionali dalla città e d'altrove. Il giornale delle 13, il giornale radio, lo spazio comunicazione, tutta scena cinema. Attica Blues, Ultra Black Music, La Schiena del Sole, il Mezzeres del giovedì, che prosegue quando ha voglia, oltre le 20, dalle 18 alle 20 e oltre le 20. E alle 23 poi Apostasia, i Cuginetti, con le loro selezioni e con lo spazio dedicato all'autoproduzione. Il nostro saluto più importante, il nostro abbraccio a tutte e tutti coloro costrette e costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, luoghi di detenzione per migranti che hanno migliaia di sigle, di acronimi, che ci rifiutiamo ancora prima di commentare, anche se i dubbi che riguardano il governo che verrà, che è stato appena fatto, sono molti, sono tutti, ma una certezza c'è che sarà un governo che se la prenderà con i più deboli, che i migranti, con gli ultimi arrivati, perché dopo tutto è la cosa più facile per essere popolari. Che brutta roba. Noi ce ne andiamo così sotto la nona comunista, bella così, ci risentiamo mercoledì prossimo, dai! I'll share our dreams under a communist moon.